La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, o bentornati in ascolto se avete sentito anche stamattina me, come tutte le mattine, insieme ad Alessandro Milan alle 8 e un quarto, attenti noi due. Comunque, buona giornata, buon mercoledì 2 marzo e 16:31 primi 8 secondi. Vi ricordo il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24, e per gli sms e le opinioni quindi 349 238 6666. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi, di una questione relativa agli immigrati, l'altra faccia della medaglia, lo chiamo io, ce ne occupiamo un po' troppo poco, credo, mentre è ovvio, ci si occupa tantissimo delle polemiche politiche, dei resoconti quotidiani dell'Europa che perde pezzi su Schengen, che non ha una strategia unitaria, di che cosa avverrà adesso di nuovo nella parte sud mediterranea, paesi come l'Italia, la Grecia, se quelli centroeuropei, l'Austria, tutto il blocco di Visegrad mette i muri come sta facendo, fa le quote quotidiane come l'Austria e così via. E quindi, primo faccia della medaglia, le nostre politiche inadeguate e l'Europa che non esiste, è divisa rispetto agli ingressi nei paesi di frontiera marittima come noi la Grecia o terrestre balcanica. E questo è un paio di maniche che descrive purtroppo la tragedia della miseria europea in questo periodo. L'altro aspetto è un altro, cioè per gli immigrati che stanno nel nostro paese, noi perché ci occupiamo così poco di un aspetto che secondo me dovrebbe essere fondamentale? E lo dico soprattutto per chi non è convinto del fatto, basta, non li vogliamo, respingiamoli tutti, ma chi invece crede che ci servano in una certa quota compatibile con la nostra situazione economica, bla bla bla bla bla bla. Ecco, il punto è, noi facciamo quello che è davvero necessario, il minimo necessario almeno, perché le famiglie, le tradizioni culturali, religiose, eccetera, diverse dalle nostre, trattino i loro membri, stando in Italia, secondo regole elementari che devono essere garantite a tutti coloro che vivono in Italia. Ecco, questa puntata è dedicata in particolare al trattamento riservato alle donne, e devo aggiungere alle donne musulmane, senza che questo induca nessuno in ascolto a credere che io abbia pregiudizi o problemi di alcun tipo. Il mio unico problema è quello di garantire il rispetto dei diritti umani e civili a tutti coloro che vivono in Italia, quindi a tutte le donne che vivono in Italia, qualunque sia la loro religione di appartenenza. La mia opinione è che noi non ci occupiamo di capire che cosa davvero avviene in quelle case e in quelle famiglie. Questo articolo nasce, poi vi presenterò i nostri ospiti oggi, nasce da un bellissimo articolo di una giornalista che io stimo molto da anni, seguo da anni, ho anche lavorato con lei a un certo punto nella mia carriera professionale, si chiama Cristina Giudici, e ieri ha scritto una pagina che io inviterei tutti a leggere, è apparsa sul Foglio di ieri, in cui è un'inchiesta giornalistica in cui cita numerosissimi drammatici casi, oltre che numeri, della condizione di molte donne musulmane nel nostro paese, siano esse membri di famiglie che vengono dal Marocco o da paesi dell'Islam nordafricano, siano esse appartenenti a famiglie in particolare pakistane nel nostro paese. Io vi voglio citare solo alcuni brani e alcuni numeri di questo articolo, perché io immagino proprio che la maggior parte di voi in ascolto non sia ben chiaro la condizione che vivono migliaia di ragazze e di donne nel nostro paese in queste condizioni. Tutti magari ricordano quello che è avvenuto anni fa, quando Hina, Hina Saleem, venne uccisa e sepolta nel giardino di casa perché si era ribellata alla famiglia, no? Per sposare uno stile di vita laico ed essere libera, e la sua famiglia non era favorevole. Però Cristina Giudici cita per esempio tantissimi altri esempi, per esempio l'esempio di Nosheen, nome di fantasia per proteggere la sua sicurezza, 24 anni, liberata pochi giorni fa dalla sua condizione di schiavitù ed è stata liberata dai carabinieri di Busto Arsizio qua vicino a Milano, perché dopo il matrimonio a Cassago Magnano era diventata serva della famiglia del marito, che si era radicalizzata nel frattempo, e che quindi le imponeva di servire tutti i membri della famiglia del suo marito e le impediva di uscire di casa picchiandola e vessandola. È stata liberata dai carabinieri pochi giorni prima, pochi chilometri da Busto Arsizio. Un'altra tragedia, scrive Cristina Giudice. Ad Albizzate, un comune in provincia di Gallarate, fermato un padre perché l'anno scorso aveva costretto la figlia minorenne a partire per il Pakistan e a sposarsi con un parente. E il padre l'aveva minacciata, la sua figlia minorenne, dicendo: se non lo sposi, se non lo sposi, ammazzo tua mamma, tua nonna, i tuoi fratelli. La ragazza gli aveva obbedito per paura, ma poi non l'aveva buttata giù, non era riuscita ad accettare il destino scelto per lei dal padre. Quindi tornata in Italia, e a quel punto però l'aspettava la vendetta, la segregazione, rinchiusa in una stanza per settimane senza cibo né acqua, pugni, calci, sferrati dal padre con stivali da lavoro. Ecco, tutto l'articolo di Cristina Giudici è, ohimè, ricco di storie di ragazze e di donne musulmane che subiscono trattamenti di questo genere, di cui noi non ci occupiamo se non quando diventano tragedie, per così dire. Però qualche numero anche su un altro aspetto che è terribile e di cui non ci occupiamo, cioè quello del fatto che noi non ci occupiamo di quante di queste ragazze si sottraggano all'obbligo scolastico, sempre obbligate dalle famiglie, e naturalmente non partecipino al mercato del lavoro. Pensate che in Italia, queste sono statistiche del 2014, sono statistiche del Ministero del Lavoro, nel 2014 ben 385.179 giovani stranieri tra i 15 e i 29 anni non studiavano né cercavano lavoro, cioè risultavano in Italia ma non studiavano né cercavano lavoro. L'inattività delle donne straniere nel nostro paese, incredibilmente, perché sembra un dato incomprensibile, è il 67,3%, ma in alcune comunità musulmane come quella del Marocco, Bangladesh e Pakistan la percentuale sale al 70%. Le adolescenti straniere che vengono tolte dalla scuola dopo le medie rappresentano percentuali altissime, cioè tra le egiziane e le pakistane 8 su 10, 9 su 10 nella comunità bengalese. E anche tra le marocchine i numeri delle studentesse tolte dalla scuola sono allarmanti, perché comunque il 38%. Allora, di fronte a questo ci sono alcune iniziative di donne sia italiane che musulmane nel nostro paese che tentano di sensibilizzare e di fare qualcosa di concreto, mentre le istituzioni italiane fanno ben poco, a dire la verità. Per esempio il rifugio antiviolenza Trame di Terra, aperto a Imola, e questa è un'associazione che è nata già 20 anni fa per promuovere la difesa dei diritti delle donne fra le immigrate. Il presidente è un'italiana, Tiziana Dalprà, che ricorda sempre con amarezza che quando molti anni fa iniziò a denunciare i rischi di questa totale e molto transigente disattenzione delle autorità italiane, veniva addirittura accusata di razzismo, perché il rischio, naturalmente, quando ci si occupa di questi temi, è di sentirsi dire, in primis magari da alcuni rappresentanti della comunità musulmana: ah, voi credete che noi siamo i violenti che picchiano le figlie, le costringono. No, però il problema è che qui stiamo parlando di casi concreti, numerosissimi, e le cifre che vi ho citato prima testimoniano che di sicuro vivono nel nostro paese ma ripudiano, non rispettano quei diritti elementari, a cominciare dalla scuola dell'obbligo, che devono essere in carico e rispettati per ciascun giovane che risiede nel nostro paese. Allora, vi faccio ancora due esempi, poi passiamo ai nostri ospiti. A Milano il prossimo 13 marzo, domenica 13 marzo, alle 14:30, e anche in questo caso la manifestazione, questa iniziativa particolare che vi vado a spiegare subito, nasce da iniziativa di donne musulmane. E che cosa avverrà? Avverrà una biciclettata riservata alle donne musulmane e alle ragazze musulmane che stanno a Milano, perché è contro l'opinione rilasciata da l'imam della moschea di Segrate, che poi ha corretto la sua espressione, Abu Shuaib, ma che abbiamo anche come audio e vi prego di ascoltare. Essendo la donna una cosa sacra, una cosa di valore, il diamante non è che le mette così apparentemente. Quindi il diamante non può andare su un mezzo così proprio diciamo, va cheap, nella, come nella, possiamo dire. Nella Cadillac, nel Mercedes, nelle così, ma non solo la bicicletta. Ecco, insomma, l'idea di Abu Shuaib, l'imam della moschea di Segrate, è appunto la donna non deve andare in bicicletta. E di qua l'iniziativa che la scrittrice Soumaya Abdelkader ha convocato per domenica 13 marzo prossimo, per, con l'idea andiamo tutte in bicicletta perché nessuno ci può levare questo diritto. Un'altra iniziativa, sempre milanese, e mi spiego e mi scuso per questo, però questo ho trovato, è quella di corsi di formazione organizzati dalla comunità islamica qui a Milano per trasmettere ai musulmani nozioni sull'effettiva parità tra i sessi, magari facendolo anche con i sermoni del venerdì. E a promuovere questi corsi sono state, a richiedere soprattutto, ragazze di seconda generazione di immigrati musulmani nel nostro paese, proprio perché c'è anche un promo televisivo, L'amore e il rispetto, che ha come slogan bisogna superare il tabù della segregazione femminile. Allora, io spero di aver reso in qualche modo a chi ascolta la serietà di questa questione, che dico dovrebbe preoccupare innanzitutto coloro che sono a favore dell'integrazione e non la pensano magari semplicemente che si risolve con i muri la questione dell'integrazione, però poi noi non ci occupiamo di questo. Allora, per parlarne abbiamo con noi Suad Sbai, che è la presidente di una ONLUS Acmit Donna, associazione delle donne marocchine in Italia. Grazie di essere con noi, a Suad Sbai. Buon pomeriggio a tutti, grazie. E Marian Ismail, che è di origine somola, componente della segreteria del PD qui a Milano. Grazie anche a Marian Ismail di aver accettato l'invito. Prego e buonasera a tutti. Posso chiedere innanzitutto a Suad Sbai, che da molti anni si occupa di questi temi, la spiegazione che lei dà al fatto che le autorità italiane, la politica italiana, sembrano girare la faccia su questo tema, qual è? Ma perché? Grazie a un buonismo che... Queste storie sono scomode, queste storie non devono uscire, perché qualcuno sfrutta anche questa, diciamo, questo pensiero per non raccontare poi la realtà delle donne. Voi avete citato Nosheen, è un nome di fantasia, ma c'è una vera Nosheen che ha subito violenza. La mamma è stata uccisa per difendere la figlia che si chiama Nosheen. E la figlia ha passato un anno intero in un ospedale per curarsi delle ferite fatte dal padre e dal fratello, e la mamma è stata uccisa. E non si fa niente, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto tantissime manifestazioni, siamo stati minacciati, siamo stati più di che minacciati in un paese occidentale, un paese libero, che forse oggi, se vado a parlare in Marocco, che le ragazze non possono prendere andare in bicicletta, si metteranno tutti a ridere perché è anormale. Però succede in Italia, è tutto normale. Un imam, perché un imam che parla non è qualsiasi persona, sì, certo. È una persona che guida la preghiera, una persona che secondo me da domani non dovrebbe guidare nessuna moschea, e dichiara che anche questo, anche le donne non devono guidare perché sono cose. Intanto ha detto cose, sì, ha detto la donna cose. È un diamante, sì, cose. Noi siamo solo cose per loro, siamo solo cose per questa gente che ha spazio nella televisione, ha spazio anche in politica, fanno parte anche della consulta del Ministero degli Interni, vanno a parlare sulla testa nostra, vanno a parlare sulla testa delle donne che non vanno a scuola, le donne non vanno a scuola, io l'ho denunciato migliaia di volte, ma nessuno sente, solo ecco, ringrazio Cristina Giudice che ha fatto un articolo molto onesto, ma c'è anche di peggio. Nasce. Anzi, non ha osato. Allora, intanto lei dice è così da molti anni ed è un fatto che non ce se ne occupa. Posso chiedere a Marian Ismail se c'è un bias, un pregiudizio politico, voglio dire, cioè la fondatezza del rischio di esporsi da una parte alla reazione della comunità musulmana dicendo noi non siamo come ci descrivete, questo è uno stereotipo, il fatto che noi trattiamo male le donne nella nostra vita di casa, impediamo di andare a scuola, le obblighiamo a sposarci, le minacciamo, eccetera eccetera, da una parte c'è questo pregiudizio politico, dall'altra però perché proprio chi si batte per l'integrazione non fa di più? Nella sua esperienza, Marian Ismail, quali sono le risposte a queste due domande? Ma non è vero, io come donna mediatrice culturale, antropologa e con una lunga esperienza, ormai direi 35ennale, la mia presenza in Italia, tanto è stato fatto e tutto quello che la giornalista ha descritto sono anni, ormai è la terza generazione che subisce una situazione di questo tipo. Abbiamo cercato di lavorare con le scuole, di lavorare con i presidi e le presidi, di segnalare nelle famiglie che crescere, diventare adolescenti in un paese come l'Italia non significa certamente andare contro le proprie tradizioni, ma è un arricchimento anche per le comunità, soprattutto islamiche. E, che dire, io per questo dissi un giorno, se dovesse mai esserci una moschea, la questione, oltre che la religione e la politica separate, la questione centrale deve essere quella femminile, perché ovviamente, ma non tanto dal punto di vista dell'Islam in quanto religione, ma delle culture che compongono le comunità islamiche, e noi ci troviamo sicuramente molta strada da fare da questo punto di vista. Le bambine pakistane, le bambine del Medio Oriente, insomma, è una difficoltà nel riuscire a sviluppare il concetto di emancipazione e di diritti, che stranamente è molto più difficile affrontare questo discorso in Italia che nei paesi d'origine, come diceva Sadbai. Allora, paesi d'origine sono più avanti. Sono più avanti, è incredibile a dirsi, ma è così. E allora però la domanda che poi io intanto vi faccio, però le risposte che poi vi chiedo a Sadbai e a Marian Ismail, e dopo un minuto di interruzione perché dobbiamo dare notizie sul traffico, è questa. Ma non è che chiedere la piena adesione a dei valori fondamentali, non a tutti, come ha detto adesso Marian Ismail, non significa convertirsi, cioè mancherebbe altro, abbandonare la propria religione, però chiedere l'adesione piena, integrale ai diritti che sono garantiti nel nostro paese dalla Costituzione e dalle leggi, in che misura rischia di suscitare reazioni negative da parte di, non frange, ma magari anche parte fondamentale delle comunità di immigrati che sono in Italia? Perché a me sembra questo un po' il punto, magari mi sbaglio, però la risposta tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Lo spunto di questa puntata è un articolo pubblicato ieri a tutta pagina sul Foglio da Cristina Giudici, con un'inchiesta, con storie di ragazze che appartengono a famiglie delle comunità di immigrati, quindi di seconda generazione, ragazze cresciute in Italia che però, se pakistane, vengono obbligate, le minorenni, ad andare in Pakistan a sposarsi con matrimoni combinati, e se si rifiutano sono violenze molto gravi, a rischio la vita, vengono ritirate dalle scuole in percentuali altissime, vengono trattate violando alcuni diritti fondamentali che sono garantiti nel nostro paese alle donne in generale e a chi è minorenne naturalmente. E la questione diventa: ma chiedere la piena, integrale adesione al rispetto di questi diritti significa violare il diritto di queste comunità a rimanere ancorate alle proprie tradizioni culturali? Qui non si tratta solo di religione, perché attenzione, cioè, la faccenda pakistana non è dettata solo dall'Islam, perché altre comunità sono altrettanto musulmane ma non praticano questa maniera così radicale. Quindi si tratta, dice Marian Ismail, secondo me ha ragione, di tradizioni culturali. E su Sbai che dice, c'è il rischio, se uno dice dovete rispettarli in pieno questi diritti, di essere presi come razzisti? Ma ci preoccupiamo di questo? Io non mi preoccupo assolutamente, perché prima di essere immigrati o musulmani o altro, bisogna essere intanto a rispettare la cultura, quella italiana, occidentale, e rispettare i diritti umani della persona. A me, che sei musulmano, sei buddista o sei altro, non me ne importa nulla. A me importa che tu vieni in questo paese e devi rispettare tutte le regole di questo paese. Non puoi avere la testa in Italia e il cervello in Afghanistan. tu devi andare via, non sei compatibile con questa cultura, non sei compatibile con la, i diritti della persona, i diritti umani. Io non me ne importa che vengono chiamati chi parla di questo o razzista o quello o quell'altro, mi importa poco. Ma io mi importa che la persona umana che vive e vive in modo disumano in Occidente, questo Occidente che ha perso ormai un ventre molle, che ha perso grazie a un buonismo, grazie a chissà che cosa, dobbiamo noi rispettare tutte le altre multiculturalismo. Ma chi l'ha detto? Io prima di tutto, tu vieni qui, rispetti le regole di questo paese. Se non sei contento, non sei d'accordo, prendi il primo aereo e torni a casa. Io sono d'accordo sul fatto culturale con Miriam. Miriam ha ragione, Miriam è una persona composta, una persona che vuole il dialogo, apre il dialogo. Io sono stanca di dialogare, perché mentre noi dialoghiamo, abbiamo le donne segregate in casa in Italia, non in Afghanistan. Allora, nel frattempo ci ha chiamato un ascoltatore, tra gli altri, siamo Ahmed, musulmano, immigrato in Italia, che però non può stare a telefono perché sta lavorando. Io comunque lo ringrazio e riporto alle nostre due ospiti, a chi ci ascolta, la sua opinione. Ho l'impressione che Giannino abbia convocato due ospiti e due donne che non conoscono l'Islam. Non è vero che l'Islam tratta così le donne. Io ho tentato di non generalizzare, Mohammed, ho citato i casi che però sono qui documentati e i numeri che documentano che il fatto che ritirarla dalle scuole e obbligarla ai matrimoni combinati, i numeri dicono che sono elevatissimi. La stessa domanda allora faccio di nuovo a Mariana Ismail. Come si fa a convincere le comunità e le culture che il rispetto dei diritti fondamentali è una specie di ABC sine qua non, non si può stare in Italia? Prima una risposta flash al signore che ha telefonato. Infatti io non ho detto che l'Islam che lo dice, sono le culture degli uomini e delle donne che subiscono queste situazioni. Quindi facciamo una netta distinzione fra quello che è società e quello che è Islam. Posto questo, e spero che l'ascoltatore sia d'accordo con me, e passo la sua risposta, includendo io certamente, come diceva Suad, con cui ho fatto tante battaglie, io non smetto di includere. Allora, le soluzioni ci sono, sono tante e sono semplicissime. Includere innanzitutto nel percorso di crescita dei genitori e il fatto che ci siano dei diritti universali riconosciuti per bambine e bambini, e questo lo può fare la scuola, lo può fare i punti nascita, i consultori, ci sono molti punti di aggregazione dove poter però andare a lavorare. Faccio una domanda, però per dare un'idea a chi è a casa, se una bambina minore viene ritirata da scuola, sparisce negli anni dell'obbligo, gli insegnanti in Italia segnalano questo alle autorità? Sì, segnalano alle autorità, le autorità non intervengono, perché questo è il problema anche di una normativa che è in qualche modo carente da questo punto di vista. Quindi sono soluzioni integrate, da una parte certamente la scuola, da una parte le associazioni femminili e da una parte anche il pensiero che l'emancipazione e le lotte delle donne sono state fatte dappertutto nel mondo, anche in Italia. Quindi non dobbiamo spaventarci del fatto che dobbiamo ribadire oggi nella nostra società che le donne devono acquisire. Guardi, io so che lei ha anche un impegno politico su Milano. Io penso che le autorità amministrative italiane, quelle di prossimità, cioè i comuni, su questo dovrebbero impegnarsi ventre a terra. Per i piccoli comuni, facendo associazioni, eccetera, eccetera. Io credo che proprio le parti d'Italia dove più elevata è la percentuale di immigrati e dove non a caso però l'immigrazione funziona meglio che altrove, perché è da più anni che ci siamo alle prese con i problemi che significa lavoro, problemi di urbanistica non concentrata nelle aree a basso reddito e così via. Questa attività di sensibilizzazione operante però nelle famiglie, con rispetto ma operante, deve essere visibile in ciò che i comuni e i poteri decentrati della Repubblica fanno a garanzia della vita di queste ragazze e di queste donne. Non si tratta di mettere al muro nessuno dicendo tu sporco razzista, però si tratta di non chiudere gli occhi di fronte a un aspetto fondamentale della vita italiana che ha dei numeri che non possono che addolorare chiunque sia convinto che come italiani abbiamo comunque un patrimonio di valori da di difendere e da mettere in comune. Però non possiamo occuparcene solo all'indomani di un titolo perché una donna viene uccisa. Ecco, questa è la mia convenzione di fondo. Io ringrazio i miei ospiti, Adil da Torino, che ci aveva chiamato, però la chiamata me l'hanno passata troppo tardi. Credo che volesse dire più o meno la stessa cosa, che contano le culture e non l'Islam. Ma Adil, hai sentito che noi siamo d'accordo su questo. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con Attenti a noi due insieme a me, Alessandro Milan.